Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Guess it's true, I'm not good at a one night stand, but I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? C'è chi lo intende Islam per la pace e per la convivenza tranquilla, e c'è chi invece lo ritiene come guerra alla Maometto, che ricordiamoci fu un generale che conquistava le città. Il califfato, che è nato sull'Islam, è qualcosa che impone di tagliare la gola a chi è cristiano o a chi è ebreo. Why am I so emotional? È utile. Possibile premier da parte del Movimento 5 Stelle, non credo davvero che ce ne sia uno. Sono tutte persone che non hanno fatto nulla nella vita, sono tutte persone che non hanno un lavoro. Come i loro elettori appartengono alla categoria di quei cittadini che non ha saputo far niente di buono per sé e per la propria famiglia. Chi sono gli elettori dei 5 Stelle? Nella grande maggioranza sono tra i 15 milioni di italiani che sono nella povertà più assoluta, e sono 4 milioni e 600 mila o nella cosiddetta povertà relativa. Capito? Elettori del Movimento 5 Stelle, siete persone che non avete fatto niente di buono per sé e per le vostre famiglie, per voi e per le vostre famiglie. Così Silvio Berlusconi è tornato Berlusconi. Signori, tra l'altro la vicenda di Dudu, ma vi rendete conto? Ieri Lorenzo Nespoli ci diceva: guarda, sembra che non l'abbia mai tenuto in mano, scappa come un'anguilla. Non era Dudu! Hanno preso una copia di Dudu, cioè è tutto, perché la TV, dovete capire, è tutto teatro, è tutta finzione, è tutta costruzione scenica, è tutto autori. Avrà detto: voglio fare questa cosa del cane. Non ha portato Dudu in persona, in cane, non ha portato Dudu in carne, ossa e cane. Era una copia di Dudu, gli hanno trovato, e quindi non conosceva Berlusconi, no? Ha portato la patacca di Dudu, e quindi questo falso Dudu voleva scappare. Tutto è finzione. Caro Presidente De Luca, come la vedi lunga? E qui sei pronto a condurre la versione 4.0 di 24 mattino. Ma si può essere così idioti? Adesso, moderiamo, come al solito, uno dà un dito e De Luca subito parte. Calma, cioè un po' più di equilibrio. Attaccare! Ecco. Signori, il vero ritorno oggi c'è da noi. Sono molto felice, sono molto contento, perché alle 6:33 minuti posso annunciare, dopo un lungo silenzio, per una censura, bavaglio ovviamente che gli abbiamo imposto, scherzo, torna con noi Albertone Forchielli. Buongiorno Alberto. Alino! Non immagini la gioia. Ma dove la sei? Dove sei? Con questi meravigliosi ascoltatori. Dove sei? A Bangkok. Capite come se la spassa. A Bangkok, attaccare, lo dico io. Vabbè. A Bangkok, signor Alberto, come stai? Tutto bene? benissimo, benissimo. Benissimo. Dai, apriamo il Parlamento come al solito a Bangkok, non ti si sente molto bene. Urla al telefono. Ma ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma... Allora, prima ti chiedevo sempre la battuta sui cinesi e il Milan, perché adesso hai visto? Oh, guarda, tu non lo sai, ma oggi Donnarumma rimane al Milan. Questo almeno cita la Gazzetta dello Sport. Questioni di cuore, il dramma Donnarumma pare finito, ma non si sa, domani boh. Ma questi cinesi non lo possono ricoprire di denaro così, ma te l'ho detto, non c'è una fresca, quelli firmano, poi quando c'è da andare in tasca c'è la fresca. Tutte quelle promesse di mercato in Cina arriveranno due passi al cappuccino. Due pasti e un cappuccino. Sì, lì non ha la presa, quel tipo di rapporti per portare a casa quei soldi lì. E poi secondo me gli sta scavando addosso. Cos'è che? Gli sta scavando intorno. Ma le voci che sento che c'è insomma, c'è. Li stanno misurando, ma chi? Le autorità cinesi? Cioè, chi? Sì. Cioè, li finiscono in carcere, cosa succede? Non ho capito ai proprietari del Milan. No, non lo sa nessuno, ma adesso c'è da fare una puntata su questo. E dopo mi chiama Palomba, dice che mi querela, lascia perdere. No, va bene. Mi chiama Auro, se dico la verità, mi chiama Auro, dice che mi querela. Però spieghiamo chi è Auro Palomba, è responsabile. Ma è il PR di Yongong Lee, il PR di Yongong Lee. Sì, dopo mi si attacca al telefono. E non mi muoio più, perdo la giornata. No, non perdere la giornata, per carità. Però secondo me gli sta scavando un po' la fossa. Va bene. Poi se vuoi sapere che fine fanno, dice, è una puntata. È una puntata, va bene. E, insomma, il destino del Milan lo vedi sempre molto roseo. Va bene, dai. Mezzolara. Io ho detto, il compasso è su Mezzolara. A Mezzolara. Cioè. Io il Milan lo rivedrò a Mezzolara. Cioè giocheremo a Mezzolara? Con un dispiacere enorme. Pensa a me. Io ho un debito nei confronti del Berlusca, perché mi ha regalato degli anni meravigliosi. Cioè? Mi sono anche molto critico. Tutte le coppe che ha vinto il Milan. Io, ma tu tieni al Bologna, io ti frega. Capito. Ma i bolognesi, vabbè, ma il Milan è sempre Italia. Poi i bolognesi stanno su Culigoppi. Poi c'è un'antica rivalità con l'Inter, quindi puoi immaginare, capito? Inter dai tempi di Pascuti, Bugarelli, Haller, i topi, capito? Gli anni 60. Per cui il Milan è una squadra amata a Bologna. Bravo, mi piace. A Berlusca gli devo molto, sono grato, perché Berlusca è uno che la fresca l'ha tirato fuori. Ecco. E trovo che i tifosi milanisti siano tremendamente ingrati nei suoi confronti. Va bene, insomma, comunque andremo a Mezzolara e questa è una cosa bella che ci dai come notizia. Va bene, dai, parliamo di cose italiane, di politica. Oh, ma hai sentito che torna Berlusca? Torna il Berlusca, caro Forchielli. Torna, è tornata in forma, va in giro, va alle amministrative, va da porta a porta, prende Dudu, che poi non era Dudu. Torna Berlusca. No, guarda, la storia di Dudu è molto semplice. Il Berlusca... avrebbe preferito portare la Brambilla a guinzaglio, però no. Ha dovuto accontentarsi di Dudu. Si può fare. No, Alberto, non credo. E poi sai, ormai è cosa nota che a Berlusca ha sempre avuto un debole per le pecorine. Vabbè, da lì a Dudu il passo è breve. Vabbè, dai. Siamo proprio. Poi c'è anche questa storia dell'albero degli zoccoli, no? Sì, ecco. E anzi, io vorrei precisare che il Berlusca, tra i tanti meriti, è stato anche quello di essere un antisignano. Anni e anni fa ordinò ai giardinieri di Arcore di sperimentare un innesto per creare l'albero delle zoccole. Da lì a convertire l'albero delle zoccole nell'albero degli zoccoli, il passo sempre. Alberto, fermati Alberto. Allora, no, questa dell'albero, tra l'altro era uscita 2 giorni fa sulla stampa, pare che Berlusconi faccia vedere l'albero con i frutti, l'albero delle libertà, le pere, le mele. Ma tutto nasce, sì, dall'albero delle zoccole. Degli zoccoli, fai una storia nella genetica, capito? Non è che si inventa, capito? Vabbè, poi comunque. Dalle zoccole, passate per i zoccoli. Al di là delle battutine sottili di Forchielli, c'è la questione di Berlusconi che ma ti pare un paese talmente immobile? Ieri avevamo il ministro Calenda che ci ha raccontato che da 851 giorni devono approvare il DDL sulla concorrenza e ci sono degli emendamenti del PD, quindi dello stesso partito il cui governo ha fatto quella legge, che stanno ostacolando fino all'ultimo lo stesso approvazione del DDL concorrenza. Cioè un paese che non va avanti, non progredisce, cioè capisci? E quindi Berlusconi, va bene. Come Prodi, il tuo amico Prodi, cioè capisci? No, non torna, non si cala. No, Prodi, tu sai, io adoro essere mio amico personale. Certo, lo so. Adesso si è messo a fare il Vinaville, per riattaccare un po' la sinistra. Sì, però tieni presente, nell'epoca Belzano Crilato, cioè, sì, all'attac. Nonno Prodi si affida ancora al Vinaville, che neanche Geppetto usa più per attaccare il naso di Pinocchio, capito? Ma io non so che cazzo spera attaccare, se almeno mi avessi chiamato gli avrei detto usa l'attacco. Il Vinaville ormai non si trova neanche più in... Sì, effettivamente il Vinaville poi è debole, il Vinaville è una roba... L'attacco è bello... Poi sono tutti scaduti quelli commerci, capito? Bello aggressivo l'attacco. Allora, però Alberto, parliamo di alcune cose serie, al di là della politica. L'economia. Tu sei sempre molto duro a dire che non vedi assolutamente alcuna crescita, nel senso che al limite c'è una crescita piccolina per l'Italia. C'è la questione delle banche, non so se lì non se ne parlerà in Cina, ma qua ci sono le banche venete, l'ultime, per le quali c'è un tentativo di salvataggio d'intesa, ma stanno andando a catafascio anche loro. Le banche vede sono il giro del mondo, cioè se ne parla sul giro del mondo, non è un fatto solo domestico. E lì stiamo facendo una figura del cazzo, perché tutti gli altri paesi hanno messo a posto le banche, dall'Irlanda all'Islanda, all'Inghilterra, alla Spagna, addirittura che aveva un problema più grande del nostro, e noi siamo ancora lì a cincischiare. Ma come si salvano? L'unica speranza, io la Banca Verde l'ho studiata a fondo, mi sono confrontato con dei premi Nobel. L'unica speranza per le banche venete è un decreto per obbligare gli italiani a comprare una gondola da mettere sul televisore, addebitandola sull'abbonamento TV, e così si metterà a posto. Ecco, se no, dicendo. Perché se continuano ad andare a chiedere a Guffetti, capito? Quelli ormai sono anche intesa, deve pagare dividendi, non si può più. Cioè, ci stai dicendo che sono perdute, ecco. Il decreto per la gondola. Sono 20 milioni di italiani che fanno delle gondole, tutte con la gondola sul televisore, abbonamento TV, e così si mette a posto. Miliardi e due e tirano su le banche. E vabbè. In quanto all'economia, sai, Padoan ha dei meriti. In che senso? Perché Padoan è meglio del Viagra. No, perché regala agli italiani la crescita del cazzo. No. Dove lo trovi un ministro così? No, Alberto. Fermati. Lo dì. Vabbè. Allora, che ti dico? Cioè, continua a dire che, sai, voglio dire, siamo, ovviamente tutti sappiamo che i problemi principali sono un debordare del sistema pubblico, un debordare delle pensioni, e siamo qui da un lato a preoccuparci dello Ius Solar, per l'amor di Dio, cosa giustissima, però potremmo aspettare. E dall'altro Padoan ci rassicura. No, a proposito di la questione del pubblico, ci sono 2 notizie che ti vorrei sottoporre, perché tu già all'epoca avevi lanciato una cosa che avevi fatto arrabbiare tutti. tutti i nostri ascoltatori dipendenti pubblici, e ci mancherebbe, no? Si sono arrabbiati, sì, visto che avevi proposto una cosa simpatica per loro. Ah no, certo, sì. Vanno tutti microchippati come i cani. Ma dai, microchippati, sì, come, beh, i cani, vabbè, ma ti rendi conto, cioè, se io fossi un dipendente pubblico che adesso sono all'ascolto e ti sento dire che ci vuole il microchip come ai cani per controllare dove vanno, ma io mi arrabbierei abbastanza, eh. Eh beh, ma nel senso che, sai, tutti i cani vanno microchippati. I cani. Quelli non sono cani. Il pubblico microchippato, quelli buoni saranno contenti perché chiaramente avranno il merito. Quelli che non fanno un cazzo pagheranno giustamente. Ho capito, ma dai, ma che sistema è? Ma che sistema è? Ma questo allora vale per tutti, anche i dipendenti privati, allora tutti microchippiamo. Sì, diciamo che i dipendenti pubblici, vista la loro dimensione, vista la loro vastità, vista il loro basso tasso di produttività e di assenteismo, meritano un trattamento privilegiato. Eccolo là. Dai, allora facciamo così, andiamo al traffico, avete capito? Ribadisce Alberto Forchielli questa cosa, microchippiamo i dipendenti pubblici come i cani, ma mamma mia. È un programma di governo. È un programma di governo, sì, ti voteranno tantissimo, tutti. Soprattutto i 3 milioni rotti di dipendenti pubblici ti voteranno in massa. Andiamo un attimo al traffico, perché poi c'è un'altra notizia che riguarda i sindacati. Oggi Libero apre in prima pagina così. Dov'è? Che miseria, dov'è? Eccolo qua, in un anno 1488 scioperi. L'unica cosa che è bella di questa trasmissione è il traffico, mandalo, vai. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. In passato sono stato un elettore di Forza Italia, ma questa svolta ridicola animalista non la sopporto, mi toccherà votare assolutamente un altro partito. Oh Milan, invece a me quello che non fa dormire la notte è l'idea di un'unione tra Renzi e Berlusconi. Non mi fa dormire perché continua a ridere. Alessandro, io sono proprio incazzato con te, il forcone lo userai tu con te. Adesso ti schieri con Don Livio Vanzaga, cioè, ma ci rendiamo conto? Ma mi stai proprio a cascade brutto. Io lo manderei in Africa a vedere veramente dov'è il diavolo, che dove la Chiesa se ne frega altamente e se ne sbatte i coglioni. Meno male che sono buddista. Laddove invece le upper classes della mondializzazione, l'aristocrazia finanziaria, beneficia di quelli che vengono chiamati con una sorta di teologia economica i paradisi fiscali, le offshore, che spesso sono collocate anche nel cuore dell'Europa cosiddetta civile, quindi è del tutto evidente che siamo al cospetto di un massacro organizzato dei piccoli imprenditori e delle classi lavoratrici, ed è solo tramite l'unione degli imprenditori nazionali e della classe lavoratrice nazionale che si potrà reagire per tutelare il lavoro di nuovo e ripartire come Stato nazionale dignitoso. Le perle del professor Diego Fusaro. Caro ascoltatore, caro amico buddista, non hai capito nulla se dici che io difendo padre Livio Vanzaga. Non difendo padre Livio Vanzaga, non mi interessa difendere la persona. Difendo il diritto di chiunque di dire ciò che pensa, anche di padre Livio Vanzaga. Mica vuol dire che sono d'accordo con quello che dice padre Livio Vanzaga. Ma è così complicato spiegare un concetto, amico buddista, amico mio. Ti abbraccio forte, ma voglio dire, censurato dall'ordine per aver criticato la Cirinnà in modi duri, non me ne frega niente, non sto dicendo che aveva ragione su quello che ha detto, ma è libero di dire ciò che pensa e non deve essere censurato, anche se non ti piace quello che pensa, non piace neanche a me. Quindi non difendo padre Livio, ma il diritto di parola. Voltaire! Rousseau, dove siete? Voltaire! Rousseau, dove siete? Amico buddista, come fai a non capirlo? Voltaire difendo, non padre Livio. Voltaire! Ah, scusa Alberto Forchielli, Albertone, scusami, dovevo fare... Sì, no, dimmi. No, se mi sono un attimo... Ma, vabbè... faccio, mi arrabbio quando uno non mi capisce, perché vuol dire che non mi so spiegare, devo applicarmi meglio. E quindi va bene, allora, ci sono stati 1488 scioperi in un anno, capisci? Tu stai lì a lì si sciopera a Bangkok, si sciopera a Bangkok. Sì, ogni tanto pochino, sì, ma non sai, i sindacati che fanno queste cazzate. Vabbè. Sindacati maggiori che fanno politica, risettano tutto il discorso dei voucher tornando nel nero più assoluto, per carità, che l'illusione sia. Poi c'è questi piccoli sindacati che fanno i ricatti e bloccano intere città. E infatti, e quindi che si fa? Sai che se per esempio proposto l'idea di dire lo sciopero lo possono proclamare solo un tot di percentuale di sindacati. Ma cosa vuoi che si fa? Si fanno delle chiacchiere, via le concorrenze, sono tre anni che è lì, capito? Adesso facciamo delle seghe con gli uzzoli, sei mesi, cosa che ancora credi che si faccia qualcosa? Non lo so, si spera sempre. No, dai, basta, che tanti si lamentano anche delle parolacce che dici, vanno scritti, molti dicono bravo Alberto, ma molti anche delle parolacce. Vabbè, guarda, Wilfor Chielli, you get what you see. Ah, ok. Senso che tu mi conosci nel privato, come sono nel privato. Lui parla così, Alberto è così, non è che... Io sono così, capito, se devo star qui a... E poi dopo fa finta di essere un altro, come sarai. No, vabbè, non cambia niente. Io ti amo perché tu mi permetti di essere quello che sono, rispetto a tutti gli altri caimani che fanno le trasmissioni televisive, ok? Io ti amo per quello e in questo sei assolutamente unico. Ma infatti in questo sarà... Se poi non vado bene per la radio, No. E poi il 70% delle persone mi mandi a fare il culo perché dico delle parolacce, No. You get what you see. You like him, you listen. You don't, shut it off. Oh, eccola qua, bella questa lezione. Tra l'altro, non sai che non cambia niente neanche su Alitalia. Ieri sempre Calenda ha detto sì. Speriamo che Alitalia, questo è l'auspicio di Calenda, venga preso da un partner estero, perché non dobbiamo più mettere l'ennesimo gattino attaccato ai marocchi. Addirittura l'Italia dichiara, senza capire un cazzo, no a spezzatino. Ma che spezzatino? Con Alitalia non riesce neanche un polpettone, sai quei polpettone che tu fai riciclando gli avanzi della settimana prima, ma non riesce neanche il polpettone, ma quelli sono dei bambini presuntuosi arroganti. Niente, vabbè, quindi chi se la compra all'estero? Nessuno, dice. No. Ma non lo so, lo vogliono fare a pezzi, poi un po' alla volta deperisce come tutto, l'Italia è il sinonimo dell'Italia, no? Non succede mai un cazzo e un po' alla volta si spegne. Che bella immagine. Vabbè, ma Albertone, ma quando è che torni da noi, che adesso ti dobbiamo lasciare, abbiamo finito? No, quest'estate. Ah, quest'estate. Ma non dico niente, sennò quindi... mi arrivano, mi assaltano. No. Adesso ormai sono ridotto in condizione che non posso tornare. No, ma chi? Ma perché? Io mando un avatar. Manda il sosia come Dudu, manda il sosia di Forchielli, come ha fatto Berlusconi. Io mando un Forchielli, un avatar. Lui prenderà un sacco di botte in giro per strada, però io starò a vedere. E tu stai tranquillo lì a Bangkok. Va bene, dai, ti salutiamo, caro Alberto. Alberto Forchielli, dobbiamo salutarti, purtroppo ci sentiamo presto, spero quando potrai, fusi orari permettendo, noi siamo qui, alla prossima. È arrivato Milana Lino, legge, commenta, spoglia, combattute piccanti, è arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Dai che è venerdì, signori, dai che è venerdì, alle 7:19 minuti siamo qui nello spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino e dunque leggiamo quello che ci propongono i giornali oggi in edicola e allora forza, andiamo! Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh! Oh, sanno di che parlare, sanno di che parlare in questo venerdì 23 giugno. I titoli intanto: le banche venete ancora in primo piano per il Sole 24 Ore. Per le banche venete, Bad Bank da 20 miliardi. La trattativa in salita, Unione Europea, governo, in arrivo due decreti e nomine dei commissari. Anche per Repubblica, banche, Bruxelles verso il sì al salvataggio delle venete. L'apertura dedicata alle vicende europee anche per il Corriere della Sera. Londra apre sui cittadini dell'Unione Europea. Theresa May ai leader europei. Piano per garantire i diritti. Intesa sulla difesa comune. La Stampa invece ha un'apertura doppia. Da una parte una buona notizia. Crescita, il boom del Nord-Est trascina il paese. Il PIL segna più 1,2%, la media nazionale 0,9%. D'altra parte però la grande siccità unisce l'Italia. Questa è quindi una notizia non molto negativa. Lo stato di emergenza proclamato in Emilia e a Roma acqua razionata per orti e piscine. In un anno 1488 scioperi è il titolo di apertura di Libero, altro record mondiale dell'Italia. Calano i posti fissi e crescono le braccia conserte, quindi l'aumento degli scioperi. Il titolo invece del Messaggero: agenzie, Unione Europea, asse contro l'Italia, il patto Merkel-Macron sulle sedi che lasceranno Londra, farmaco a Lille, la finanza a Francoforte. E dunque il Messaggero vede in questo una chiusura nei confronti dell'Italia. Le banche sono ancora il titolo di prima pagina per La Verità. La guerra dei renziani a Banca Italia per coprire le magagne di Etruria. Sono le intercettazioni tra Consoli, Veneto Banca e Pierluigi Boschi, vicepresidente Banca Etruria, che svelano il tentativo di fermare la vigilanza, ma Visco l'aveva giurata all'allora premier anche per il taglio dello stipendio. Questo è lo scenario raccontato dalla Verità. Poi ci sono molti giornali che aprono sulla notizia con cui voglio aprire anch'io. Il titolo del giorno: morire di morbillo. Il titolo del giornale: morire a 6 anni di morbillo. Il titolo del Fatto Quotidiano è sui vaccini in generale: legge piena di buchi. E poi anche nel sottotitolo: Monza, bimbo leucemico muore di morbillo contagiato dai fratelli. La vicenda ovviamente, come potete immaginare, è drammatica, già solo per il fatto che c'è un bambino di 7 anni che non ce l'ha fatta. E i giornali raccontano di questo bambino che già aveva una storia molto difficile, aveva una leucemia, secondo molti giornali però e secondo i medici era guaribile. E poi si è ammalato di morbillo, preso da altri bimbi che non erano stati vaccinati. Forse sono stati i suoi stessi fratelli, una femmina o un maschio poco più grandi di età. Il piccolo, che era ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza, e i giornali raccontano da una parte ovviamente la tragedia, dall'altra è stato anche l'assessore lombardo al welfare, l'assessore alla Lombardia, Giulio Gallera, a dire: il bambino è deceduto per complicanze polmonari cerebrali da morbillo, una morte che è l'esempio di come la cosiddetta immunità di gregge sia fondamentale per la protezione di tutti quei bambini che per la loro malattia oppure per lo stato di trattamento nel quale si trovano non sono protetti anche quando fossero stati vaccinati in precedenza. Comunque trovate molto di cronaca e anche di editoriali, commenti su questa vicenda. Dispiace, l'unica cosa dispiace di fronte alla tragedia vera, e cioè la scomparsa di questo bambino, che, come dire, si inneschi il solito dibattito sull'importanza dei vaccini, che sono importanti, non c'è dubbio, mi viene da dire, però legato a un fatto di cronaca così, così drammatico. Però questo trovate sui giornali. Come trovate, sempre per rimanere in ambito sanità, anche se in ambito soprattutto giudiziario, questa notizia della Cassazione che riguarda l'annullamento dell'ergastolo al chirurgo Pierpaolo Brega Massone, la vicenda della clinica Santa Rita a Milano. Annullato l'ergastolo a Brega Massone. Pagina 17 di Repubblica, ma lo trovate anche sul Corriere della Sera. Non voleva uccidere i pazienti. Brega Massone, ergastolo annullato. Leggo allora dall'articolo di Giuseppe Guastella sul Corriere a pagina 17. Pierpaolo Bregamassone non voleva uccidere i quattro pazienti che morirono per le conseguenze dei suoi interventi inutili e dannosi, fatti solo per far incassare alla struttura sanitaria privata in cui lavorava soldi del servizio sanitario. Per questo i giudici della Cassazione ieri hanno annullato l'ergastolo inflitto al chirurgo toracico il 21 dicembre 2015, ordinando un nuovo processo in appello. L'accusa si basava sull'ipotesi dell'omicidio volontario per dolo eventuale, intendendo cioè che il chirurgo della Santa Rita, tristemente ribattezzata dai media la clinica degli orrori, affondando il bisturi nei corpi dei suoi pazienti, aveva accettato cinicamente e consapevolmente il rischio concreto e prevedibile che nelle condizioni generali di salute in cui erano potevano non sopravvivere. A perdere la vita furono Giuseppina Vailati, 82 anni, Maria Luisa Scocchetti, 65, Gustavo D'Alto, 89, Antonio Schiavo, 85 anni, portati in sala operatoria senza alcuna giustificazione clinica, dissero gli inquirenti. Non ero un serial killer, la mia priorità è sempre stata quella di dare ai pazienti la sicurezza, dice Bregamassone rispondendo in aula con lunghe dichiarazioni spontanee. Il medico, oggi 51enne, arrestato nel giugno 2008 con le accuse di lesioni volontarie anche su altri malati, ora vedrà un nuovo processo in appello dove si dovrà rideterminare la pena. Resta però la condanna a 15 anni per lesioni. Questo lo trovate su tutti i giornali. Oh, signori, prima abbiamo avuto Alberto Forchielli che con la sua esuberanza, attirando anche molte critiche, ha detto: rilancio questa idea ovviamente molto provocatoria di microcippare i dipendenti pubblici come i cani per controllare dove vanno, se lavorano o no. Lo so, Alberto Forchielli è così, come ha detto lui, o mi prendete così oppure non mi prendete, non importa. I dipendenti pubblici, dai, vi sento già arrabbiati, infuriati. Un po' lo sarei anch'io, immagino. Certo, non è bello, però questo mi dà il via per andare sulla Stampa. Nicola Lillo racconta: malaffare, furbetti del cartellino, in un anno soffiate raddoppiate. È il fenomeno, ne abbiamo parlato varie volte, del whistleblowing. No, coloro che soffiano nel fischietto, cioè dipendenti che dall'interno, privati anche, oltre che pubblici, denunciano irregolarità di colleghi. Lo denunciano alla procura, lo denunciano all'autorità anticorruzione. In un anno sono raddoppiate le soffiate ed è una cosa buona e giusta. Non è che c'è l'idea fai la spia. No, è una cosa giusta. Però, racconta l'anticorruzione, chi denuncia dall'interno non viene tutelato. E se uno allora non viene tutelato, è chiaro che poi viene sottoposto alle ritorsioni, alle accuse, hai fatto lo spione, hai messo a repentaglio il lavoro dei colleghi. No, hai denunciato qualcosa che non va. È un po' diversa la questione. Comunque, racconta la Stampa, un dipendente pubblico a Milano ha segnalato l'irregolarità delle assenze del personale del suo ufficio. A Roma un'altra ha denunciato il malfunzionamento del suo dipartimento. Un anonimo a Napoli, sempre nel pubblico, ha puntato l'indice sull'illegittimità nell'affidamento dei servizi nei cimiteri. Un insegnante di una scuola italiana in Etiopia ha denunciato affidamenti di appalti di forniture senza rispetto di normali procedure. Sono appunto i whistleblowers, quei dipendenti pubblici che segnalano le condotte illecite dei colleghi. E le soffiate si moltiplicano di anno in anno e lo strumento di origine anglosassone, introdotto nel 2012, funziona. Ma è purtroppo un elemento per alcuni di disturbo all'interno della pubblica amministrazione, la diffidenza dei dirigenti, dei dipendenti. E dice Cantone, soprattutto una difficoltà a dare una reale tutela ai dipendenti che rompono il muro di omertà rischiando di ritorsioni o addirittura di subire poi loro il mobbing, loro che sono dalla parte della ragione. In tutto questo, signori, le sentenze creative. C'è questo articolo che è l'articolo da mani sul volante, l'articolo che mi fa più sorridere della giornata. È una sentenza assurda di cui parla Cristiana Lodi a pagina 12 di Libero, ne scrive: masturbarsi in macchina davanti a minori si può. Questo almeno secondo una sentenza della Cassazione che ha cancellato la condanna per atti osceni a un cittadino moldavo che è stato beccato tre volte a compiere atti sessuali cercando proprio luoghi dove passavano ragazzine, tre volte così, ma è stata tolta la condanna. E perché? Le motivazioni sono straordinarie: perché il luogo non era abitualmente frequentato da ragazzini. Sentite qui: il maniaco, con gli atti di autoerotismo deliberato e stimolato dalle minorenni, ha sì consapevolmente messo in scena davanti alle stesse, che anzi ha appositamente cercato. Ma merita di essere assolto perché quegli stessi atti li ha consumati in un parco, per strada, in macchina, non certo in un luogo abitualmente frequentato dalle sue vittime. Capite? La Cassazione dice che non lo ha fatto in un locus commissi delicti, cioè in un ambito territoriale abitualmente frequentato da minori. Tradotto, si è reiteratamente macchiato di questo reato sotto gli occhi strabiliati e terrorizzati anche di bambine che lui andava a cercare, ma non lo ha fatto davanti a un asilo, a una scuola, a un oratorio, in un luogo frequentato abitualmente e sistematicamente dalle bambine. Per queste due paroline, abitualmente, sistematicamente, non lo ha fatto, assolto. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da... Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. Alessandro Milan, il John Holmes dell'informazione. Fate i bravi alle 7:36 minuti. Allora, signori, è estate, la gente così si scalda e vede così le persone che si denudano un po' e si lascia andare. Allora, l'Italia, a proposito di caldo, è nella morsa della siccità. E leggo il titolo del Sole 24 Ore, pagina 7, d'altronde è una situazione davvero difficile, non solo dal punto di vista della banalità è estate, fa caldo, ma proprio dal punto di vista anche dell'economia italiana, tanto che ieri il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di calamità e lo stato di emergenza, scusate, per le province di Parma e Piacenza. Sono già stanziate 8 milioni e 650 mila euro, ma in lista ci sono anche Toscana, Sardegna e Veneto. E racconta Anna Maria Capparelli sul Sole 24 Ore: l'Emilia Romagna, dove si concentra il 35% della produzione agroalimentare made in Italy, è tra le regioni più colpite. La conta dei danni è in corso, la siccità sta già mettendo in ginocchio il paese, in particolare l'agricoltura rischia di pagare il conto salato. La Coldiretti ha stimato danni da maltempo aggravati dalla siccità per oltre un miliardo. Tra l'altro noi ne parleremo dalle 9 alle 9:30, quando ci sarà anche Oscar Giannino. E dunque è corsa contro il tempo per utilizzare pozzi di emergenza. Un dato positivo sono gli avanzati sistemi di risparmio idrico modello israeliano adottati dagli agricoltori della regione in Emilia-Romagna. Però, siccome noi riusciamo a litigare su tutto in Italia, Repubblica fa notare che c'è anche un caso di discussioni tra regioni, in questo caso tra Liguria ed Emilia-Romagna. Perché? Scoppia con l'Emilia la guerra della diga. Genova, c'è la disputa su 4 milioni di metri cubi di acqua da dividere con la Liguria e la diga del lago Brugneto, che dovrebbe essere deviata, cioè parte dell'acqua nella diga del lago di Brugneto dovrebbe essere deviata nel fiume Trebbia per dare appunto conforto all'Emilia Romagna, ma gli accordi sono difficili da realizzare, complici due inverni consecutivi con scarse precipitazioni. È un lago artificiale, il Brugneto, costituito da un bacino costruito nel 1959 dall'allora azienda municipalizzata del gas, appunto per sbarrare l'omonimo torrente Brugneto, affluente del Trebbia, e costituisce la principale riserva idrica della città di Genova e in parte di Piacenza. La Liguria, però, più che con rilasci aggiuntivi, preferirebbe si agisse sul risparmio idrico, quindi senza trasferimento d'acqua. Eppure tra le due regioni vive dal 2013 un protocollo che per 3 anni assicurava alla Val Trebbia 1,5 milioni di metri cubi di acqua in più rispetto ai 2,5 che già scendono nell'alveo del fiume della diga del Brugneto da maggio a settembre. I 3 anni però sono passati, si tratta di rinnovare l'accordo. E qui, quando si parla di rinnovare l'accordo tra istituzioni, ecco qui che si litiga. Quindi c'è l'acqua o ci sarebbe l'acqua, si tratta di rinnovare questo accordo e intanto il caldo e la siccità non danno tregua. Questa è la notizia di cronaca, forse più importante, mentre la politica ancora si interroga sul destino di Virginia Raggi, sindaco di Roma, perché oggi sui giornali c'è l'ennesima pena per quel che riguarda la giunta Roma, e cioè sono state pubblicate le carte dell'inchiesta di Roma anche con le chat di Marra, ex fedelissimo. Virginia mi ha detto di chiedere a te. Questo è il titolo di pagina 8 del Corriere della Sera. Nella chat il ruolo chiave di Marra, che era sempre stato definito da Virginia Raggi uno dei 23.000 dipendenti del Comune di Roma, invece da questa chat si capisce che soprattutto nella scelta di spostare il fratello in un ruolo più importante e più remunerato, e poi nel rapporto personale col sindaco, insomma, non mi sembra uno dei 23.000 dipendenti se era in chat con Virginia Raggi e discuteva col vice sindaco. A un certo punto parla anche spesso con questa Concetta, sua amica Marra, e peraltro non dice cose brillanti sul Movimento 5 Stelle, la giunta per cui lavorava. A un certo punto Marra dice: considera pure che questi in questi giorni sono stati impegnati al ping pong think tank, con il tono scherzoso, cioè con ste stronzate che il pensatoio. Io ho detto: ma per fare il pensatoio devi portare gente pensante, se tu porti cerebro lesi, ma che vuoi contà? Ecco, questo è anche il modo in cui si esprimeva al telefono con l'amica Concetta Marra. C'è la Lombardi che pare, dice, sono stato definita anche mignotta mentale in una chat. Ovviamente quando escono poi le chat e i dialoghi privati, al di là dell'aspetto processuale, come dire, naufragano anche un po' i rapporti personali, perché emergono un po' tutte le cose di quello che scrivono le persone nei confronti di altre persone. Tanto che, racconta il Corriere della Sera, la missione di Casaleggio e il sostegno freddo. Ora ci vogliono risultati. Casaleggio, Davide Casaleggio, è andato a Roma, all'uscita dal Senato viene fotografato, viene anche un po' pizzicato dai giornalisti, risponde a monosillabi, soprattutto quando gli si chiede: ma il Movimento 5 Stelle appoggia la sindaca Raggi? Risponde con un molto laconico e flebile sì. Un sì, certo, l'uomo è di poche parole, scrive Alessandro Trocino sul Corriere della Sera, ma in questo caso ne basta una per indicare un appoggio gelido, un sostegno condizionato agli sviluppi di un'inchiesta che rischia di diventare un inciampo grave. La tesi difensiva della sindaca, che indicava Marra come uno qualunque dei 23.000 dipendenti del comune, crolla sotto il peso delle chat, e difenderla è sempre più difficile. Questa è la situazione politica, ma ci sono altre notizie politiche, come quella che vede il sindaco di Milano Sala, e questo c'è scritto sul Corriere della Sera, Luigi Ferrarella, una pagina, pagina 11, il sindaco di Milano Sala è indagato, una nuova accusa dopo quella di falso, c'è un'accusa di turbativa d'asta. La procura generale, sostituitasi ai PM, sinora contestava al sindaco solo un falso, e invece ora c'è un'accusa di turbativa d'asta nella fornitura di alberi sempre quando era commissario dell'Expo. L'indagine bis, nata dalla avocazione, muove dall'iniziale capitolato per la piastra da 272 milioni vinto dalla Mantovani, nella quale era compresa anche la fornitura del verde, dunque le piante, interessamenti politici regionali volti a non far restare fuori il mondo dei vivaisti lombardi, avrebbero determinato lo scorporo dell'appalto del verde assunto da una certa impresa sotto forma di sponsorizzazione. Secondo l'accusa, in quel momento la gara avrebbe dovuto essere riformulata. Invece, dal quadro complessivo, non fu scorporato questo valore di 4-5 milioni corrispondente al costo del verde, rispalmato anzi su altre voci per lasciare il bando complessivo intatto. Questa è l'accusa nuova nei confronti del sindaco di Milano, Sala. A proposito di sindaci, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ti piace? A proposito di insulti, indagini, a proposito di... Guarda, a proposito di indagini, sì? Sul Sole 24 Ore di oggi c'è un'indagine delle autorità cinesi, delle autorità bancarie cinesi, proprio sugli investimenti cinesi all'estero. Oh. Quindi tutti i dettagli naturalmente in pagina 4 del Sole 24 Ore, ma ti consiglio soprattutto l'articolo di Carlo Festa dedicato a un investimento, cinese via offshore, che riguarda proprio la tua squadra del cuore. Perché quindi, ridi? Perché ridi? No, niente, così. Perché hai parlato del Milan e ridevi. Sì, mi veniva un po' di ilarità, ecco, questo pensiero. Ma che non ti permettere mai più. Non si trova pace a questa cosa. Va bene, senti, devo dire due cose importanti. Allora, la prima è, cosa fai martedì? Perché ti ricordi che martedì abbiamo un impegno. Martedì abbiamo la Wondy Night, ma certo... Alpime, che però devi sempre ricordare il teatro del Pime a Milano. Sì, a Milano facciamo la Wondy Night con tutti i comici anche dello Zelig. Venite, si ride molto e dovete mandare una mail a gestionesale@pimemilano.com. Vabbè, ma dopo allora lo metto su Facebook, dai, così mi hai stimato. Bravo. Ci sarà anche Mauro Meazza, signori. Però ho preso già i biglietti e ci mancherebbe altro. Ci vediamo lì. Invece non andare domani a cercare Plus, che no, anche se è sabato. Perché? No, perché sono 24 ore, domani non ci sarà. Giusto. Stavo allora dicendo veramente come mai non... Plus lo troverai invece domenica, con il Sole 24 Ore di domenica. Quindi se vuoi leggere Plus, ma diciamo c'è uno sciopero dei poligrafici, diciamo, perché non c'è uno sciopero dei poligrafici, sì, programmato per oggi, quindi domani il Sole non sarà in edicola. Non sarà in edicola, è così, confermo. Oh, poi ti voglio anche segnalare così, fior da fiore, ti segnalo che oggi, venerdì, ultimo giorno della guida alla manovra. Guarda che parliamo dei voucher, adesso non si chiamano più voucher, però insomma quelli che erano i voucher adesso sono stati reintrodotti in una modalità diversa, li spieghiamo oggi nella quinta puntata della guida alla manovra, religiosamente su norme e tributi come sempre. Poi ti segnalo naturalmente le banche venete, già le hai ricordate in apertura, allora lì è anche interessante capire insomma chi paga il conto, quanto toccherà agli azionisti, quanto alle banche, quanto anche agli obbligazionisti, ma trovi tutto in pagina 3, leggi avidamente. Articolo da meditazione sulla Brexit, te lo consiglio, di Riccardo Sorrentino, il conto lo pagano praticamente i meno abbienti e i consumatori, insomma i consumatori meno abbienti, ma riassumo male perché l'articolo è tutto da gustare. E poi in ultimo, ma non per questo meno importante, in questa mia piccola antologia ti segnalo una ulteriore decisione di Cassazione, se la ex va in pensione e basta con l'assegno divorzile. Lo ha confermato la Cassazione, lo trovi scritto sulle pagine di norme e tributi che leggerai come sempre scrupolosamente, ma no, vabbè, religiosamente, ma non importa, tanto è inutile, con te non c'è niente da fare. Allora a questo punto buona domenica, anche buon fine settimana e soprattutto come sempre profi. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Alessandro Milan, il dai lama dell'informazione. Va bene, allora oggi a proposito di questioni giudiziarie, Il Fatto Quotidiano con Antonello Caporale fa una delle sue interviste che sono davvero spassose da leggere anche per la costruzione sintattica. A Roberto Formigoni, che è stato condannato a 6 anni per corruzione, ne sono uscite le motivazioni di questa condanna. E corrotto ma che celeste, questo è il titolo dell'intervista di Antonello Caporale a Roberto Formigoni. E comunque c'è l'appello, i miei avvocati sono già al lavoro, non arrischio tanto a dire che c'è stato un complotto, ma accanimento sì, dice Formigoni. Che poi racconta una realtà insomma, sua, che secondo lui lo vede addirittura acclamato dalle persone a dire torna, torna. La sostanza, dice Formigone, è che vengo condannato per aver finanziato benemerite istituzioni sanitarie, cioè per aver dato accesso alle migliori cure alla povera gente che ancora mi ferma in strada, nel metrò e spesso mi chiede «Ma quando ritorna lei?». Ma i suoi occhi incrociano quelli dei Lombardi, scruta livore oppure ossequio, amicizia o odio? Alcuni se ne fregano, risponde Formigoni, in tanti mi riconoscono, altri mi chiedono ma lei è Formigoni? E poi che succede? Qualcuno mi stima, qualcuno se ne fotte e qualcuno mi dice pirla, pirla, e in politica ci sta. Comunque Formigoni dice... Quale corruzione? Io sono innocente, scandisce così, e sarà dimostrato chiarissimamente. Questo Formigoni. Tra l'altro, a proposito di politica, certo hanno chiesto le dimissioni di Formigoni, ma hanno chiesto le dimissioni di tanti, tanto che oggi Mattia Feltri nel suo Buongiorno sulla Stampa, in prima pagina, scrive il commento «Dimettiti tu». L'ex sindaco di Roma, Alemanno, ha chiesto le dimissioni di Virginia Raggi. Che problema c'è? Qualche anno fa Grillo chiese le dimissioni di Alemanno. Ieri Brunetta ha chiesto le dimissioni di Padoan. Salvini ha chiesto le dimissioni di Gentiloni. Ma questo solo ieri, eh? Nell'ultima settimana il 5 Stelle ha chiesto le dimissioni di Formigoni, del presidente della Rai Maggioni, di tutto il CDA. Metà Parlamento ha chiesto le dimissioni di Lotti. Calderoli ha chiesto le dimissioni dell'Appendino. La Giammanco ha chiesto le dimissioni di Pietro Grasso, la Lega ha chiesto le dimissioni di Franceschini, Grillo ha chiesto le dimissioni di Alfano e Speranza ha chiesto le dimissioni di Maria Elena Boschi. Vabbè, le dimissioni della Boschi sono state chieste da tutti. Comunque, per restare nell'ultimo mese, sono state chieste le dimissioni dei ministri Fedeli, Minniti, Orlando, Pinotti, Poletti, Lorenzin, del Presidente della Repubblica, dei Presidenti di Camera e Senato, del Direttore del TG1, del Direttore della Repubblica e forse non ve ne siete accorti, ma l'europarlamentare Pittella ha chiesto le dimissioni della Premier inglese Theresa May. La destra chiede le dimissioni della sinistra, la sinistra della destra, i 5 Stelle di tutti e tutti dei 5 Stelle. Il che spiega perché la qualità di una democrazia si vede anche o specialmente dalla qualità dell'opposizione. Oggi Mattia Feltri nel suo Buongiorno sulla Stampa. Vabbè, qua c'è un minuto per chiudere. Oh, mi piace questa provocazione che solo la Stampa ha messo in pagina. No, provocazione, cioè è una dichiarazione del presidente americano Trump. Che alla domanda, ma perché hai scelto uno ricco all'economia? E Trump in un convegno, in un suo comizio nell'Iowa, ha dato questa spiegazione. Io amo tutti, ricchi, poveri, amo tutte le persone, ma in un ruolo chiave voglio uno ricco, perché è la dimostrazione che ha avuto successo. E quindi se lui ce l'ha fatta vuol dire che ne sa. Trump, amo i poveri ma non li voglio al governo. Beh, questa è un po' una forzatura nel titolo, però il senso è questo. Questo Donald Trump sulla Stampa, lo faccio vedere anche nella mia pagina Facebook. Mentre invece, non chiedetemi perché, ma lo trovate sui giornali, Franceschini ha querelato Fedez, cioè il ministro della cultura Franceschini querela Fedez. Prendetela così, per fede. Per Fedez, per fede. Va bene, e siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccolo qua, io dovrò andare da Zen oggi, perché c'è una pagina di Libero sull'irresistibile mistero del gatto. Io infatti lo guardo, la guardo, lei mi guarda, io la guardo, Zen, e mi guarda. Mao! E io dico, ma vorrà i soliti crocchini o mi dirà qualcos'altro? Ma chi se ne frega!